Vendo tutto di Matteo Caccia. Fino a qualche tempo fa non potevo fare a meno del computer per lavorare, della Vespa per muovermi e della televisione per distrarmi. Poi nella mia vita è successa una cosa che mi ha cambiato le prospettive e la loro importanza. Ecco, in quel momento lì ho deciso: vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Capita, lo so, succede a tutti e stavolta è toccato a me. Io però ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo il materasso. In quel periodo della mia vita, le mie giornate erano vissute tra disegni da consegnare a scuola, giri in bicicletta, sabati al cinema e lunghe camminate, mangiando gelati, lecca lecca e patatine. Mi portavo dentro un senso di libertà simile a quello che provo ancora tutte le volte che ci sono giornate di vento. Un sentimento di completa fiducia nella vita, uno stato in cui poco importa che posizione si occupi nel mondo, l'età che si ha, le scadenze che si devono osservare, perché ciò che è veramente importante è sentirsi felici e pensare che prima o poi i desideri del cuore si realizzeranno. Ecco, quel regalo mi faceva una certa fretta, come se mi dicesse: adesso è arrivato il tempo in cui puoi realizzare ciò che anneli da tanto. Sarai in grado di farlo, ne sarai all'altezza. Questo racconto si chiama L'Anello, ce l'ha inviato Simona Fabbri, che è nata a Ravenna nel 74 e vive a Ravenna. Dopo aver conseguito la maturità artistica mi sono iscritta alla facoltà di conservazione dei beni culturali, indirizzo archeologico presso l'Università di Bologna. Questo è l'ultimo racconto che leggo oggi, non è l'ultimo che stiamo leggendo perché continuano ad arrivare i racconti per il concorso Vendo Anch'io, però è ufficialmente quasi terminato, scade tra 20 minuti, avete ancora 20 minuti per inviare il vostro racconto, la mini biografia e il desiderio da realizzare avendo tutto @radio24.it. Da Rijkaard, poi per la verità Guardiola lo ha praticamente... Questo però non è un giorno qualunque, non è solo il giorno in cui finisce il concorso Vendo Anch'io, è anche il giorno in cui cominciano i 55esimi mondiali di calcio. Carlo Genta in studio. Ciao Matteo, buongiorno a tutti. Sono i 55esimi. Ma perché fai subito domande difficili? Perché sono partito con quella roba, i 50... Subito una cosa che non so, subito... non mi ricordo più. Perfetto, io non sapevo nemmeno che partita c'era. E invece sappiamo che è... Abbiamo che detto... i padroni di casa, Sudafrica-Messico, e giocano da 5 minuti e Sudafrica ha già rischiato almeno 2 volte di beccare il gol. Non mi sembra una squadra molto competitiva. C'è uno stadio... Ma scusa, il Sudafrica, essendo che paese ospitante, è di default dentro, giusto? Sì. Però una volta non giocavano i campioni del mondo la prima partita? Hanno cambiato questo regolamento, adesso il mondiale viene aperto dai padroni di casa. Questo rumore orribile è un... com'è che si chiama sta roba? Vuvuzela. Vuvuzela, perché giù nel cortile della splendida Serra del Sole 24 Ore accadono delle cose. Uno dice: ma lì scriveranno e basta. No. Ci sono delle... ci hanno portato i mondiali. Non ci hanno mandato i mondiali, ma ci hanno portati qui. Cioè, ci sono delle sì. sedie a sdraio, delle robe. Sì. Ma cioè, che chiunque può venirci. Hanno allestito questo spazio bellissimo, devo dire. Ma non lo dico per interesse di partito. Io andrei lì a vedere i mondiali sul serio. Cioè, c'è uno schermo gigante? Sì, sì, e poi c'è intrattenimento, musica da tutti i paesi del mondo. Ma deve essere una cosa veramente gradevole, ma... per tutti i giorni mondiali. Ma c'è un bar? Sì. C'è anche il bar? Sì. Ok, quindi in teoria c'è anche un sito, mi pare. Allora, c'è un sito, estatealsole.it. Ne sapessimo una in due. Estatealsole.it. Uno che vuole venire qui a vedere le partite anche con gli amici, sì. va lì, si registra, poi arriva all'ingresso, dice: mi sono registrato, mi chiamo Matteo Caccia. Può entrare lei e i suoi amici. Ed entra. Sempre Dos Santos, che mi sembra libero di agire alle spalle dell'attacco un po' dove vuole. Non è proprio una gran partita questa. No, questa non è una gran partita. Ma alla fine io ti ho chiesto di entrare, Carlo, perché tu sei il calcio di Radio 24. Però noi, a parte che io non ho mai parlato di calcio, ma i mondiali sono... cioè, non è solo calcio, no? No, il mondiale è tutto il resto. I mondiali è quasi tutto il resto, insomma. Nei mondiali c'è... è tipo questo. Ma tu immagina... adesso la suoni solo tu. Immaginati ad essere in uno stadio sudafricano dove la suonano in 20.000. Cioè, adesso la stanno suonando tutti? In questo momento? È il suono... senti, in questa roba qua. Scappano, dice che chiede palla, lo senti quel brusio di fondo? Sono tutte quelle trombette che sono... che era un po' quando... ti ricordi quando si vedevano le partite dell'Intercontinentale in Giappone? Sì. Ed era da levare l'audio, eh. Ed era questa roba qua. Era qualcosa era di satellite. Era proprio un suono che producevano nello stadio giapponese, perché i giapponesi stavano zitti. E allora, per creare un po' di casino, di ambiente di rumore, mandavano questo fischio prolungato che era una cosa da trapanarti il cervello. Io avrei rifiutato di giocare. Ah, perché i giapponesi stavano zitti. Stavano zitti. Però c'è una notizia legata a Messico-Sudafrica, e la notizia è che se il Sudafrica esce subito, a caro gente, restituiscono i soldi della televisione. Sì. Hai fatto quella roba del guffate contro? Ho fatto quella roba lì, ho visto lo scontrino Sudafrica. Toccherà guffare i padroni di casa, mi spiace molto. Senti, Carlo... Però... Senti, certo, ma tu mi hai invitato qui, posso invitarti anch'io una sera di queste a vedere una partita con me? Tu sei in onda quando? Dalle 21 alle 22.30 tutte le sere, dal lunedì al venerdì. Per tutti i mondiali? Per tutti i mondiali, sabato e domenica, soliti orari, 5-6 al sabato, 5-7 la domenica. Vabbè, naturalmente il pomeriggio. Vieni a vedere una partita con me. Assolutamente, assolutamente sì, assolutamente, in sé non vuol dire niente. Un'ultima cosa, tu sei mai stato ipnotizzato in vita tua? No. Ok, visto che oggi si parla di ipnosi, 800-24-0024 349-238-6666. Se siete stati ipnotizzati, mi chiamate e mi raccontate cosa vi ricordate. Perché in teoria, se non è stato ipnotizzato, si ricorda niente. Però delle volte invece capita una roba diversa. 800-24-0024 349-238-6666. Carlo, grazie. A te. Ci si rivede qui da te. Per vedere invece l'oggetto che vendo oggi, che è il materasso, c'è il sito radio24.it. Per sentire la sua storia, eccoci qui. Il materasso. Imbottitura. Ovatta di fibre di polilattide, ovatta di lana, crine. Rivestimento del materasso 100% cotone. Grado di rigidità, rigido. Lunghezza materasso 200 cm, larghezza materasso 160 cm, spessore 26 cm. Perfetto per dormire o giocare al tappeto elastico. Valore commerciale 599 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 00 24. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Perché il bello di vivere in una grande città è che puoi incontrare tanta gente diversa. Magari anche gente che ti vuole fregare. Se non ci fossero tutte queste possibilità, la noia ci ucciderebbe nelle città. Io la penso così. Ecco, su questo con Giulia eravamo d'accordo. Quello su cui non eravamo d'accordo, invece, è che un'altra cosa bella di vivere nella grande città è poter conoscere un sacco di persone, magari anche dell'altro sesso, e poi mescolarcisi. Ecco, io pensavo fosse una bella opportunità. Lei pensava solo che io fossi un porco. Quando abbiamo acquistato un materasso nuovo, il motivo è stato chiaro. Su quello vecchio avevo dormito per alcuni anni e lei era convinta che quel materasso andava cambiato. Io pensavo che si trattasse di una spesa un po' eccessiva per una cosa non così fondamentale, ma su quel tema l'espressione di Giulia era chiara. Non so se avete presente la peggiore espressione che una donna possa avere, quella che ti fa capire che non hai nemmeno il permesso di fare una domanda, tantomeno di sorridere. Ben vedere era vero che quel materasso aveva visto altre donne, ma voglio dire, è un oggetto, no? Ma lei mi disse che un oggetto non è mai solo un oggetto, anche se io pensavo il contrario. Quindi presi e andai a comprare un bel materasso nuovo. E poi scegliere un materasso non è mica facile. Ci sono mille variabili. Variabili di cui ti accorgi solo alla fine della prima notte, quando ti alzi con una fitta tipo colica alla schiena e speri che si tratti solo dell'assestamento al materasso nuovo. È per quello che hanno un sacco di garanzie i materassi. Solo che è talmente scomodo prenderlo, portarselo a casa la prima volta, che poi l'idea di rimontarlo sul tetto della macchina ti fa passare tutti i dolori alla schiena. Vendere materassi, già comprare materassi non è facile, ma vendere materassi è un mestiere strano, no? Una volta i materassi li vendevano direttamente quelli che li facevano, perché erano di lana ed esisteva il materassaio. Da qualche decennio invece i materassi li fabbricano delle aziende e quello che li vende al massimo può dirti se le molle sono rigide oppure no, se lo devi girare d'inverno o d'estate da una parte e dall'altra. Basta, tutto lì. E poi, come tutti i venditori, devono fare una sola cosa: rassicurarti. Perché quando entri in un negozio così, mica lo fai per passare il tempo, no? Cioè, quando entri in un negozio di materassi, vuol dire che ne devi comprare uno e l'unica cosa che puoi fare è sbagliare. Comunque fai, sbagli, perché sarà troppo duro, troppo molle, troppo alto, troppo basso, troppo corto, troppo lungo, sarà sempre sbagliato, agli occhi tuoi e soprattutto agli occhi suoi, di lei. E siccome questo il venditore lo sa molto bene, quello che deve fare è solo farti sentire forte, farti capire che stai prendendo la decisione giusta, che tu sei lì e stai facendo la cosa che devi fare e la stai facendo al meglio. Quanto durerà questa sensazione non importa, basta che duri fino a casa per lui. Il mio venditore di materassi non era Giorgio Mastrota, era un ipnotista. Come faccio a sapere che il venditore del mio primo materasso matrimoniale era un ipnotista? Ce l'aveva scritto su una parete, dove c'era appeso un vero e proprio diploma. Sì, poteva esserselo pure fatto finto, per quel che ne so. Fatto sta che ci teneva che lo si vedesse. A me personalmente bastava che riuscisse a convincermi che era meglio comprare un materasso lì da lui e pagarlo un botto di soldi, piuttosto che comprarlo dalla televisione e pagarlo la metà, che te lo portavano pure a casa. Sì, perché Giulia insisteva con il fatto che potevano anche avere la garanzia di 10 anni quelli della TV, ma sua mamma le aveva insegnato che se un oggetto costa troppo poco, qualcosa di male deve essere, no? E quindi bisognava spendere di più per sentirsi rassicurati. Praticamente la festa danzante del marketing. Per convincermi, questo tizio doveva mettercela tutta, perché se ero lì era solo per assecondare Giulia. Quindi questo cominciò a parlare, e quando attaccò e cominciò con il lattice e le molle, io capii che stava dicendo qualcosa di importante, ma non gli stavo dietro. Sarà stata l'aria viziata del posto o il suono che viene attutito da tutte quelle pareti morbide, ma mi sembrava di essere immerso nell'ovatta, come durante una nevicata. Non che fosse una brutta sensazione, ma non capivo niente di quello che succedeva. Cioè, adesso se ci ripenso, non mi ricordo granché, mi sembra di ricordare l'immagine di me che salto su un materasso a molle gigantesco e canto una canzone dei Beatles. Non lo so, può anche darsi che me l'abbia fatto provare e che ci sia saltato sopra, oppure possa essermi semplicemente addormentato durante l'esperimento della posizione fetale e sia stato tutto un sogno. Ricordo però che poi di colpo sentii il suono fortissimo del cellulare e Giulia che mi telefonava per chiedermi se avevo fatto quel che dovevo. Fatto sta che una volta a casa mi sono buttato sul vecchio letto e mi sono sparato 14 ore di sonno filato. Roba che mi sa che il tizio, se mi aveva fatto l'ipnosi, l'aveva fatta con lo scoppio ritardato. Qualche giorno dopo ho scoperto dal giornale che proprio quel venditore di materassi là era stato arrestato perché praticava una certa medicina illegale. Ecco, lì di sintomi sono toccato la schiena per sentire se mi avesse tolto un rene come nelle canzoni di Elio e le storie tese, però non ho trovato cicatrici. Il materasso che poi abbiamo comprato, all'IKEA ovviamente, è ancora a buon mercato, è più a buon mercato di quella della TV, e non è male. Se me ne libero è per lo stesso motivo per cui Giulia voleva che mi liberassi del precedente, perché ci ho dormito con lei. Sonni profondi e sereni. Sonni che sto ritrovando solo ora, che di lei sta scomparendo ogni traccia. In questo caso si tratta di una traccia di 2 metri per 1,60, in ottimo stato. Vale 599 euro, base d'asta 99 centesimi. Se siete mai stati ipnotizzati, 800 24 0024. Sapessi che felicità mi dà l'idea di non sapere più. Quando cammini dove vai, quando dormi con chi lo fai. Di tutte le lacrime che hai, quante ne piangerai, quantificando il male che mi fai, ho visto che non finisce mai. Quindi ho messo le mani in tasca e l'ho sputato sulla tavola. Buon appetito, amore mio. Che spacca Maroni Giulia. È anonimo il messaggio, però ci ho tenuto a leggerlo. 800 24 0024 349 238 6666. È vero che ci si ricorda poco se si è stati ipnotizzati, però qualcosa ce lo si ricorda, magari anche di quello che è accaduto dopo. Stefano prima mi ha mandato un messaggio su Facebook e io non ce l'ho fatta e ho dovuto chiederglielo. Pronto Stefano? Sì, ci sono. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Senti, tu sei stato ipnotizzato dalla tua prozia. Sì, esatto. Raccontami bene la storia, perché già la trovo meravigliosa. In pratica è successo che tramite mia madre, insomma, io non dormivo per un anno, ho passato dei periodi a non dormire, dormire poco, insomma. Ma tu eri bambino? Sì, ero molto piccolo, 12 anni, insomma. Okay. Quindi era abbastanza strano, uscendo tutti i pomeriggi, come puoi immaginare. Sì, chiaro, un bambino non dorme, uno si preoccupa. Quindi niente, mia zia, parlando con questa mia prozia, lei mi disse portalo qua e vediamo cosa posso fare io. Questo perché lei praticava pranoterapia, insomma, energia dalle mani, questo okay, si dice. Poi io non so se sia vero o no. Ma e quindi cosa faceva di mestiere tua zia, la pranoterapeuta? Massaggiatrice. Ah, la massaggiatrice. Massaggiatrice, esattamente. Solo che con questi particolari poteri, chiamiamoli così, sì, diciamo che poteva calmare le persone, insomma. E quindi ti ha ipnotizzato ufficialmente? Ufficialmente sì, tramite massaggi. Quello che mi ha spiegato lei è stato che col passaggio di energia in punti giusti si può ipnotizzare una persona, e in quel caso è stato così. E quindi tu per quanto sei stato in uno stato di coscienza alterato? Un'ora e mezza. Ok, e in quell'ora e mezza cos'è accaduto? Cioè, cosa ti hanno raccontato che sia accaduto? Mia zia mi ha raccontato che io mi sono messo a raccontare del perché non dormivo, ovviamente io non ne potevo sapere nulla in quel momento. Certo. E ho spiegato appunto un trauma che ho avuto poi da bambino, semplicemente è stata una paura che ho avuto molto forte. Ah, ok, forte, che semplicemente non ti faceva più dormire. Senti, quindi la zia massaggiatrice ti ha ipnotizzato, scusami se lo ripeto, ma è la cosa, è come avere una zia parrucchiera che ti pratica l'agopuntura, più o meno. Esattamente. Stefano, grazie mille, buona giornata. Ciao, alla prossima. Ciao, andiamo a Como da Michela. Pronto, Michela? Sì, ciao Matteo. Ciao Michela, senti, io sto bene, tu spero anche tu. Tu mi hai raccontato invece prima su Facebook che hanno provato ad ipnotizzarti, però essendo in televisione era tutto finto. Era una situazione un po' strana, sono andata a questa trasmissione, stavano facendo delle prove, una trasmissione televisiva. Che trasmissione era? Era il video, parecchi certo, anni fa. Con Enrico Ruggeri, come sì, no? Sì, sì. È la mia imitazione che mi viene meglio, quella di Enrico. Ecco, bravo. Scusami, vai pure avanti. Niente, praticamente stavo facendo queste prove e serviva una pseudocavia e mi hanno beccato e hanno detto: ah, perché non partecipi tu a questa cosa? Ci sono due psicologi, e erano le prove che servivano appunto per la regia. Quindi erano le prove di una seduta di ipnosi. Sì, quindi sì, non sì, ti hanno ipnotizzato, ma manco morta proprio. Infatti non hanno rischiato. Però ti avevano messo in testa delle cose. Sì, sì, sì, infatti, perché poi mi hanno fatto sedere su questa chaise longue, sai, tipo... Tipo chaise longue? Sì, sì, tipo chaise longue, infatti, sono mi veniva, sì. Poi mi hanno messo questa specie di cuffietta con questi sensori, c'era un macchinario attaccato dove si vedevano appunto delle varie onde, i movimenti, eccetera. Certo, le tipiche onde cerebrali. Senti, però fondamentalmente, Michela, alla fine ti hanno ipnotizzato sì o no? No, ma no, benissimo. Ma no, secondo me no, non ce l'hanno fatta. Come secondo me? Te lo ricorderai se ti hanno ipnotizzato? No, però. Ma perché poi... Ma no, io lo sveglio. Ok, eri sveglissima. No, Michela, divertente. Ti ringrazio molto. Che lavoro fai tu che sento gli uccellini dietro di te? No, adesso sono in giro al sole. No, però sì, sono un architetto. Ok, va bene. Michela, grazie mille e viva gli architetti. Ciao, buona giornata. Grazie. Ciao anche a te. Speravo ciao, tipo consulenti in architettura. Andiamo ad Asti da Gianluca, pronto? Ciao Gianluca, ci sei? Senti, velocemente, raccontami cosa è successo. Allora, io ho sempre avuto, fin da bambino, una fortissima paura degli aghi. Sì. Addirittura, cioè, iniezioni, non ne parliamo, farsi cucire, dare dei punti, piuttosto preferivo sanguinare. Okay. Addirittura mi facevo trapanare i denti senza anestesia, proprio perché questa paura... Che immagine tremenda. Orribile. Gianluca, però devi abbassare un pelo la radio ed essere un po' più veloce. Guarda, va meglio adesso. Meglio. Insomma, andiamo al dunque. Ti hanno ipnotizzato allora, in che modo? Il mio dentista mi ha ipnotizzato tramite lo scorrere dell'acqua nel suo studio con diverse sedute. Sentendo lo scorrere dell'acqua sono sempre rimasto più tranquillo. Già, e guarda, Gianluca, allora riesco a farmi fare l'anestesia. Sono anche diventato... Ok, niente, l'abbiamo perso, non si sentiva niente. Allora, quello è stato ipnotizzato dalla massaggiatrice e questo dal dentista o dall'ipnotista? Dal dentista. Attenzione, prima di chiudere, in due notizie da dare. La prima è che la lista dei desideri continua e quindi a breve io e Tiziano Bonini partiamo e andiamo a 4061 metri sul Gran Paradiso, giusto? Perché devo andare sul Monte Rosa, però si va per gradi. Si parte sul Gran Paradiso, fateci in bocca al lupo. Fatti. La seconda invece è che decreto in questo momento preciso, per la gioia di Laura Faggin, la chiusura del concorso Vendo Tutto, quindi tutti i racconti che arriveranno dopo quest'ora purtroppo non saranno tenuti validi. Da questo momento chi c'è c'è, chi non c'è è fuori, e lunedì vediamo i 5 finalisti. A lunedì. Love, love, love, wherever you get